Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera e buona domenica da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba in tutta la sua bellezza e il suo splendore. Buona domenica. Come va? Come stai? Benissimo. Sei pronto? Sempre pronto. Operativi qui dal Groovemaster Studio per un'altra puntata del Soundcheck, ovvero il suono della musica di Radio 24, musica alla quale noi vogliamo dare il via proponendovi l'ultimo album di un cantante pianista inglese di nuova generazione che non è Jamie Callum, che ormai è una star accreditata della discografia jazz inglese. Pare che abbia venduto più dischi lui di tutti gli artisti di jazz inglesi degli ultimi 20 anni. Sì, ormai è una star internazionale. Questo Jamie Callum, questo signore che invece noi vi stiamo presentando, del quale abbiamo parlato altre volte qui al Soundcheck, si chiama Anthony Strong. E Anthony Strong realizza un album molto piacevole, molto divertente, interessante, affiancato e sostenuto da una bellissima big band di musicisti inglesi, album intitolato, come il brano che stiamo per presentarvi, uno standard famoso del jazz, On a Clear Day. Che cosa sappiamo di Anthony Strong? È innanzitutto inglese anche lui, come Jamie Callum. Possiamo dire che prima di Jamie Callum aveva già fatto delle cose che andavano in quella direzione, però ha avuto meno fortuna, meno risalto rispetto a Callum. Infatti comunque lui rilegge il repertorio del passato, ovvero tutti gli standard di jazz, cercando di dargli comunque una fluidità super moderna. È un grandissimo appassionato di Frank Sinatra e di tutto quel filone lì. Sì, ed è quello che fa in questo album, lo ripeto, intitolato On a Clear Day, rivisita degli standard in chiave contemporanea, però sempre con il sapore old school. Tutto è stato suonato, non è stata utilizzata elettronica, e poi fa anche qualcosa di più, ovvero dei brani che appartengono al repertorio soul e R&B rivisitati invece in chiave jazzistica. Ecco, insomma, praticamente mischia le carte per dare vita a un album, lo ripeto, molto molto piacevole. Anthony Strong al Soundcheck di Radio 24 con On a Clear Day. On a clear day, on a clear day, you can see forever and ever. Molto piacevole questo album di Anthony Strong qui al Soundcheck. È anche un bravo pianista, pianista elegante, elegante anche nell'aspetto e nel look. Sì, è praticamente un classico gentleman inglese, però guardandolo sembra più vecchio di quello che è in realtà, perché andando a cercare un po' di informazioni su di lui è del 1984, quindi comunque è un ragazzo, però se vedi le foto sembra tipo uno di 40 anni. Quindi old school nel look e nell'abbigliamento, Anthony Strong, che da On a Clear Day ci fa ascoltare un altro classico, ma non del repertorio jazz, come dicevamo, del repertorio che invece appartiene più al soul e all'R&B, perché questa è una composizione di Stevie Wonder, un cavallo di battaglia di Stevie Wonder, intitolato Higher Ground. Anthony Strong al Soundcheck di Radio 24. The people keep on learning, soldiers keep on warring, were keep on turning, because it won't be too long Soundcheck. Il suono della musica. Il 7 aprile di quest'anno, 7 aprile 2015, ricorrevano i 100 anni della nascita di Billie Holiday. Sì, esatto, la signora che cantava il blues. Lady Sings the Blues. E naturalmente la maggior parte degli artisti americani e comunque artisti di jazz hanno in qualche modo voluto celebrare questa meravigliosa interprete che ha segnato pagine importanti della storia del jazz e della musica con la sua vocalità, ma anche con la sua drammatica storia. Sì, però diciamo che ci sono dei tributi riusciti e dei tributi un po' meno riusciti. Dal mio punto di vista, cioè, chi si pone con Billie Holiday come cantante si trova in una difficoltà impressionante, perché non potrai mai cantare a quei livelli. Perché o sei un imitatore di Billie Holiday o per rivisitare Billie Holiday in chiave originale rischi qualcosa. E non ha rischiato tanto Rebecca Ferguson, anche lei cantante inglese che celebra Billie Holiday, l'abbiamo ascoltata qui in All of Me, uno standard di jazz che credo Billie Holiday abbia cantato in un paio di occasioni, non di più. Album dal titolo banale, ovviamente, Lady Sings the Blues. Rebecca Ferguson canta Billie Holiday e qui l'abbiamo sentita in All of Me, ma c'è qualcuno che invece rischia di grosso, ha rischiato sulla sua pelle, e intanto perché è un maschietto. Sì, José James. José James, eccolo qui al soundcheck con questa sua versione di God Bless the Child. E questo sì, perché tra l'altro Billie Holiday scrisse il brano, il testo di questa bellissima composizione. Album intitolato Yesterday I Had Blues, ieri è passato fra le mani il blues. Questo è il titolo dell'album di José James per regalare il suo tributo a Billie Holiday. Posso fare Lady una Day. Nota? Cioè... Fai la nota. Questo disco è abbastanza soporifero, però c'è qualche pezzo che merita, tipo questo. Bimbe's got shell gear, Bimbe's not shell loose, so the Bible says, and it still is newly, mama may have. Papa may have, God bless the child. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. We can't get along somehow. I want some of that honey from that sweet honey. Quando fu pubblicato l'album di esordio di Cecil McLaurin Salvant, qualche critico di jazz gridò addirittura al miracolo, e ce la proposero anche a Umbria Jazz, dove ottenne un grandissimo successo. Cecil McLaurin Salvant pubblica un nuovo album intitolato For One to Love, brano dal titolo What's the Matter Now. Che ne pensi di Cecil McLaurin Salvant? Intanto ritratta in questa fotografia inserita all'interno della copertina, dove è quasi clownesca, no? Bah, niente di eccezionale, non è. Sì, con che cappellino è questo qui? Una retina rossa appoggiata sul suo, da sulla vecchia, sua testa, proprio. Così proprio da anziana, e occhiali con montatura bianca che ricordano invece quelli di Enrico Ruggeri dei primi anni Ottanta. Ebbene, Cecile McLaurin-Salvan qui al soundcheck con What's the Matter Now. Che ne pensi proprio da un punto di vista musicale? Mi sono ritrovato a parlarne con un nostro fan su Facebook, Alfredo. Anzi, lo saluto. Lui è appassionato, mi aveva proposto appunto i brani del suo penultimo disco che si intitolava Woman Child, in cui noi l'abbiamo suonato diverse volte. Sì, quello là è un gran bel disco, invece questo qui nuovo, For One to Love, secondo me è un disco normale, niente di eccezionale rispetto al precedente, non un passo indietro. Non c'è cosa più brutta che potevi dire, no? Come il disco è normale, o abbastanza normale, come dice un mio parente, come stai? Abbastanza normale, che non significa niente. Sì. Poi comunque da una che ha vinto nel 2014 addirittura 4 premi da un Beat Magazine, ti aspetti un qualcosa di più, sì, qualcosa di nuovo, di magari, nuovo, evoluzione, no? Sì, invece qui siamo rimasti passo indietro a 2013. Va bene, da Cecile McLaurin-Salvan chiudiamo quindi il soundcheck invece con due cantanti che a noi piacciono molto per motivi diversi. Nuova generazione, Gretchen Parlato, ormai artista, cantante, compositrice accreditata, che ha aperto una nuova strada, ha fatto capire alle vocalist della nuova generazione che si può avere successo, fare tournée in tutto il mondo e anche produrre dei bei dischi pur non avendo una voce potente e estesa, ma una voce particolarmente intonata e con gusto cantare poi melodie raffinate, originali e non, portandosi dietro in studio i migliori musicisti della nuova generazione, e questa lezione l'ha appresa anche la sua allieva. Sì, Lauren Desberg, di cui sono quasi innamorato. Ecco, sei quasi innamorato di Lauren Desberg, che qui incontra Gretchen Parlato, la sua, come potrei definirla? Mentore. La sua mentore, in uno standard di jazz intitolato You Go to My Head, ma assolutamente rivisitato in chiave contemporanea, per chiudere in bellezza anche questo appuntamento del soundcheck, e quindi darvi appuntamento alla prossima settimana, sabato prossimo, dalle 19:15, e che possiamo fare? Salutarvi. Sì, buona cena a tutti, visto che siamo in orario. E vabbè, andiamo a cenare anche noi, andiamo a mangiare qualcosa. Aglio, olio e peperoncino. Addirittura, figurati, se non te lo porti tu il peperoncino. Io ce l'ho sempre appresso. Grazie a tutti, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo. E da Francesco Tromba.